gli contestava il presidente fino a qualche mese fa, era detto comunista, ma ora che si è estinta la razza comunista è la volta di un nemico ben più fondamentalista, è l'imbecille. Interniamolo, arrestiamolo, camicia di forza e acqua in faccia all'imbecille, all'imbecille, all'imbecille, all'imbecille, all'imbecille, all'imbecille. E non alcuna intelligenza chi diffonde una notizia priva di rilevanza. E allora... CNN, imbecille, BBC, imbecille, il Corriere, imbecille, la Repubblica, imbecille, e la Stampa, imbecille, Herald Tribune, imbecille, Daily News, imbecille, Telegraph, imbecille, New York Times, imbecille. E internando tutti quanti gli imbecilli, resterebbe fuori soltanto il presidente per parlare di libertà. Alla formica, alla cicala e all'elefante, alla formica, alla cicala e all'elefante. Imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imbecile, imb